sta iniziando proprio qua a organizzare per il riempimento di saccoccia. Va bene, va bene. No, niente, già fa, dai. Non mi va, capite? Frequenza non mi va di questo e quest'altro. Vabbè che non hai detto niente di particolare, per carità. Non sentirti colpevolizzato. Ok. Ok, dai, che mi devo svegliare alcune cosette, dai, fatevela buona, buona carica, buon tutto, buon riposo, buon inizio di giornata per domani, fate i buoni, fate i bravi, anche non vi posso dire. Ne approfitto, vi lascio, sai Massimiliano, dai che devo ultimare delle cosette, se no è un casino, dai. Se no poi non ci riesco, mi ingrippo e devo ripetere 10.000 volte. Dai, fatevela buona, alle prossime. Avanti Gianni, dove sei arrivato? Ma fermo, sta! Ma niente, la bistecca sicuramente. Sì, chi subirà di viso, chi passa si piglia la roba al volo e la domani a pure in casa. Ho preso un po' con le fornite di vaccini perché scendo subito, così continuo a fare un lavoretto. Ciao di nuovo, buona carica, buona cena. Se ci siete, ci sentiamo dopo. E se non ritenete di salutarti, buon tutto per domani. Ciao ciao. Ciao Gianlu. Ciao Gianpaolo. Ciao Gianluca, ciao Gianpaolo e ciao Sandro, che si è dedicato a salutarlo poco fa. Buona cena. E io se non esco già riprendo dopo cena. Un'altra chiacchierata già me la faccio, non c'è problema. Quando sono da casa andiamo in viaggio a non faccio la mitende, dai. Ok, avanti Gianni. Ciao Sandro, buonasera, buon curetti, alla prossima. Avanti Gianni. Grazie. Oh, se ne è sceso anche lui, boh. Ora si trappomendi. Allora, lui dice, appena rientra, lui dice, ho fame, e domani andiamo a vedere un bizzetto. Voglia, come sto, mamma mia, come sto. E che moto ti hai preso, se ho class? Allora, prima, te max, io devo imbigliare, non è moto, adesso pare già di scuotere, che si può quella. Ah, positivo, e io va bene, la voglia. Come lo so, ce l'ho preso. Non lo so, la moto ce l'ho prima, è normale, ma non me ne frega niente, non c'era centralina, non c'era niente, ma... Sempre molto veloce comunque, abbastanza. Va bene, non c'è la batteria perché non volevo provare, non so perché la ferma, però l'ho provata, non metteva in moto, provata con i cavi, è partita subito, pensavo si caricasse, invece non prende carica, quindi era andata, anche perché le frecce non ce la faceva manco a fare scattare le re, i clacson suonava piano piano, ora invece è perfetta. Capito? Nera. Forse il garage, ma ho preso il casco, ho preso tutta l'attrezzatura della moto, domani ci andiamo in moto. Senti, ma tu ci avresti rimasto qualcosa del rimasto, ma no? Marmita, cosa così? Sì, c'ho qualcosa, ce l'ho. Marmita per anni. Ma non l'ho tenuta più avanti, appena arrivato io al carro, adesso mi serve per spostarmi qua in città e per andare al lavoro, capito? Vabbè, c'è una bella marmita di bene, vivo faccio due, fai due. Io, un'oretta faccio tutto. Va bene. No, prendo la attrezzatura, il casco, il giubbotto, che era tutto appeso in garage, via Pascoli. Capito? Sono andato a prendere la roba, e me lo so portare a casa. Via, positivo, va bene. No, che cazzo, il D-Max è una bella moto, vedo, la buona. Secondo me come scooter è uno dei migliori, se non il migliore. Oh, io voglio un California, la volete? Anche se pensavo che la pietra sera c'era lo specchietto malato, invece non ci riesce più in giro, sì. No, sono andato a accompagnare mia figlia da cosa, giù dal fisioterapista. Se io sono a cavare bene di questa cosa che c'ha. No, già me l'ha detto, ma siamo tutti a bigliare più là. Non l'ho vista da lì, non l'ho scritto da me, quella c'avevo prima. Noi pensavo una motoretta piccolina, la sai, non sei giunto con una motoretta piccola. No, quella era il mio vicino di casa che me l'ha prestata, quel 150, l'Honda 150. No, quella per giocare bambini. No, quella c'avevo prima, il 500. C'avevo un vecchietto. Dimmi, ma che macchinetta così da spendere poche un carrato che voleva sapere. Guarda, se non ti fotti nuda, c'è uno che ha una 500, però quella è nuova 500, dai, quella col portalone dietro, l'altra ha poche lire, ed è buona come macchina, se vuoi una macchinetta così, poi non so, dimmi cosa ti interessa, chiediamo. E poche lire secondo te quanto le vuoi? No, se è 300-400 euro, la macchina è buona però a me, è in ordine. No, io stavo cercando tipo un bandino, un appunto, una Twingo, una qualcosa di quelle, non quelle vecchie vecchie, una qualcosa, una macchinetta più, la 500 è troppo piccolina, mi hai capito? Me ne accorgo perché mio padre era 600 e che non è un 600 pare che sono usato una garretta. No, vabbè, dipende tutto da cosa vuoi. Io consiglio qualità prezzo e punto, quelle punto sono dal 2000-2002, diciamo, siamo fatto dal modello da 99 in poi, dai. Quelle della seconda serie, quelle lì le trovi a buon prezzo, sono macchine che vanno benissimo, poco, ti chiedono poco, consumano poco, quelle le trovi dai 1200-1500 in su, le trovi quelle macchine. Ne ha preso una del 2006 mi sembra, questo amico l'ha pagata 3.000 euro, ma nuova, nuova, nuova, 60.000 km, vabbè, non dico così a spendere così tanto, ma sui 1.500 già le trovi qualcosa di discreto. Ti dice buonasera. Positivo, là. Ci può 2300 una seconda serie. 2000 è buono, ormai intendo. Se del 2000 è 1242 di cilindrata, 1100 erano le prime. E comunque si può andare a vedere, hai capito? Vanno bene, anche se c'è qualche piccola marcatura non tira tutti nulla, i motori sono indistruttibili, mi fanno 300.000 km e oltre con le macchine lì, rimuovono solo benzina e andare, sono motori eccezionali, niente da dire. Poi 500 euro cosa vuoi pretendere, non è che ti devono dare la macchina perfetta, se è buona, nel senso che non c'ha grossi problemi meccanici, pigliala subito. Se un caraggio da rimane indietro, bisogna vedere come è messa anche, cioè la carrozzeria non mi interessa, perché se c'è qualche colpo, qualche lampio, giustamente la macchina c'è già l'età sua, quindi quello è normale magari. L'importante è che sia buona di motore, cioè non è che prende, spendo 500 euro, che la usano due giorni e poi mi molla a piedi, mi hai capito quello che ti voglio dire? Perché c'è un motore buono, per quello la vuole avere qualcuno che conosce, capito? Ma ecco qua, il motore buono, l'ho fatto la giga di esecuzione, la valentina è fatta, la pompa dell'acqua, gli ho fatto un sacco di lavori, infatti volevo recuperare quei soldi lì e basta. E poi è buon messa, ma ho detto anche di carrozzeria, non è messa male. Vabbè, comunque domenica mattina, non lo so, se si può vedere questa macchina, possiamo anche andare a vederla. Facciamo così. Questo e quest'altro, e io a seconda dei soldi l'indirizzo. Sì, ma infatti è per quello che ti ho fatto questa domanda a te. A volte magari le cune non ci paccate, e se tu magari me la voglio togliere fuori dalle scatole e la vendono magari 700, 800, 1000, capito? Le danno una gislatina così e la parolizza di più. Appunto, di motore, se a posto di motore grossi problemi di ruggine non ne hai, perché l'unica parte che non è zingata è la capota mia, al limite devi stare un po' attento nella capota se non vedi anche il buco, perché è l'unica parte che non è zingata. Per il resto ruggine non viene, se poi c'è qualche piccola marcatura tutti zinni, poi per il resto gli interni già si trovano a burare per rubice, se uno per dire ha gli interni un po' messi male con qualche centinaio di euro te li prendi nuovi, se uno poi la vuole più presentabile. Ma ti ripeto, guarda Roberto, io l'ho visto la macchina da ciò, non la voglio sputtanare per il lavoro, mi hai capito quello che ti voglio dire? Cioè come ti carichi quello, carichi l'altro, e ti sposti, e vai, e giri, è sempre. Io quella lì me la voglio riservare un po' più per la famiglia, mi hai capito? Anche perché già lo sai, usando la donna la cosa è diversa, la tiene più pulita. E tutte queste cose, io voglio una macchina da spagasso lì, mi hai capito? Facciamo cosa di posso lì, un poco di legna, tiro con il vento, non devo stare lì a lavare, a fare, a girare, capito? Sì, la macchina da battaglia, allora, ministro, però se non consiglio rimani te ne Fiat, non andare con macchine straniere che poi magari puoi trovare anche qualcosa di meno, un po' più nuovo in età, però se viaggiamo a un pezzo ti devi sempre rivolgere a poche persone, mentre con le moto di Fiat qualunque cosa la rompi la trovi da tutte le parti, ce ne sono talmente tante di punto in giro, la sua carrozza e non hai problemi di niente, che si faccia un fanalino, un faro, qualunque cosa le trovi subito, magari se vai a Renault Citroen diciamo trovi sempre qualcosa, ma è molto più difficile. Adelante Isola Canaria, Isola Sardegna che ti va copiando, adelante. Tuo nominativo per favore, ma è mio compagno. Lo senti Massimiliano? Sì, l'ho sentito, mi è arrivato Santiago sì, poi c'è sceso del tutto. Era un bellino, quasi 8 era qua. Adelante Spagna se scucci la nord della Sardegna che mi ha chiamato. A Canaria se ti metto un'antenna puntata di lì come vorrei fare io, io sono convinto lo sentiamo tutto l'anno. Sì, perché anche io lo so come arrivano sparati a me qua. Canarie, Tenerife, tutte quelle zone lì. Ecco, c'è chi sta per dirti, c'è questa ragazza sempre che qua dice Elena, non so se lei c'è mai fatto casa, sempre a sempre. Ecco, quasi tutto l'anno io la sento. Era fissata con Luca, sempre Luca, guarda vero, c'è ragione, infatti non dico adesso sono un po' di mesetti che non la sento, perché vabbè ci sentano poco, però l'ho sentita tantissime volte, e con Luca, sempre fissava a Luca quando parlavo. Sì, e se no con Falchetto. Anche con Falchetto, un oraggio più inteso a Falchetto, più sentito l'hai? L'ho sentito, boh, la sera un mese e mezzo fa più o meno. È radio? No, no. Verticale. Ma qualche problema c'è? Vabbè, non ne voglio parlare qua a me. Magari ne parliamo quando ci vediamo. No, non lascia perdere, ci mancherebbe. No, mi dispiace, era sempre qua, tutti lì, era uno dei più assidui. Come aveva attaccato, io parlo, quando è che aveva attaccato? 2 o 3 anni fa, tutti i giorni. Ma addirittura lui attaccava alle 5 del mattino per accompagnare a Gigino Vulcano. Pure. No, ma già, cioè, già ce l'ha sempre lì. Baracchietto, in macchina e cose, ogni tanto già si fa sentire, ma proprio ogni tanto, poi ti spiegherò. Ma abita sempre dove abitava prima? No, no, non c'è più lì. Ok, dai. Vabbè, poi cambiamo discorso, non siamo nei fatti degli altri, non mi interessa. Cosa ti volevo dire? Avuto un peccato, una bella macchina, infatti se la usi per metterci roba dentro la arruinaggi subito. No, ma... Me l'ho bombata, cosa sarà, un mese fa, ci ho messo 4 gomme Michelin, poi vabbè io adesso perché c'ho questa qua, io proprio quel modello uguale alla tua, che a Ghita si la mangiava, ma proprio di netto. Ma io non voglio vantare la macchina mia, però ti posso dire, io ho quella di mio fratello, che l'hai vista, quella di mio fratello è uguale alla tua. Allora, c'ha secondo me dei difetti, prima di tutto gli hanno indurito lo stretto, la frizione è totalmente diversa, perché hanno messo questo doppio volano sul coso. Allora, le frizioni della macchina mia, abbiamo il modello vecchio, c'hanno le molle, il classico spingidisco e disco con la molla incorporata. Per fare una modifica adesso hanno messo questo volano, un controvolano, una specie di parapiede esterno. Non sai quanti giambi hanno già visti fasciati? Mi ne ho preso uno, me ne è arrivato ieri uno da Torino per mio cugino. Il quarto che faccio di cambio, che faccio fare per questo problema qua. Infatti mi ha detto, chiama l'induttore e ritorna alla modifica originale senza questa cagata di cosa. Infatti dice la Fiat adesso l'aveva eliminata, si è resa conto che dava solo problemi col cambio. Sì, ma poi non so se hai notato la differenza anche, no? Allora, dal modello nuovo al modello vecchio il passo della macchina è un me più lungo, anche andare a prendere ripresa, grazie per voi Gesù Cristo. No, guarda, un'altra, ma a parte la cosa che a me mi piace di più della macchina mia è il muso, un bel gente lo critica. Niente è più bella la nuova, niente da dire, l'hanno abbellita con i fanalini, però i fanali che ho io sotto il parabrezza, ma non sai che fate, già lo saprai anche tu, non c'è confronto con la vecchia, tu se viaggi di notte e attacchi i fanali, li abbagliati, mi arrivi a 300 metri, con questi nuovi si arrivi a 150 metri è troppo. Guarda, Roberto, allora io l'altra, il modello come la tua, l'ho tenuta 6 anni, me ne sono pentito ad altra, guarda, devo essere sincero. Allora, l'ho data perché c'era da rifare tutto la pantena, cioè barra stabilizzatrice, braccetti, ammortizzatore, ci volevano intorno più o meno 1.500-2.000 euro. E ho detto, ah sì, per quella cifra lì, la do e mi ho preso questo modello qua. Però ti giuro che me ne sto mangiando le mani, perché poi c'era rotta la cinghia di distribuzione, mi era piegato un valvole, quindi gli ho rifatto fare tutto il motore, era una scheggia, era ritornata proprio come nuovo. Me ne sono proprio pentito. Che anno era la macchina tua? Del 2001. Uguale alla mia, 2001 lo stesso. Io gli ho fatto 200, quasi 230.000 sono arrivato adesso, 228.000 chilometri. E ti posso dire, il motore non gli ho mai fatto una... L'unici problemi che mi ha dato erano problemi elettronici, di coso, di sensori che davano indicazioni sbarrate. Alla fine hanno eliminato tutto, l'ho lasciato diretto, turbina diretta, ho eliminato tutti i sensori, quelli antinquinamento, cose del genere, pulita adesso, come altre parte. Ma ti posso dire, è tutta un'altra erogazione rispetto al motore multijet. Mio fratello non ha il multijet, c'ha il GTD 120, io ho il 110. Il mio cugino c'ha la multijet, è un'altra macchina. Cioè l'erogazione magari forse non lo so neanche leggermente meno rumorosa della mia la coso con la multijet, forse mi da vedere tra l'altro, però a livello di erogazione come coso ragazzo, guardi, la mia fa andando a Cagliari, scendendo a Cagliari cambiando anche 100-110, alla media di 110 mi fa più di 20 km con un litro. Sì, infatti allora la mia era il 110 cavalli quel modello là, però vabbè era senza, non c'aveva l'opzione dei sensori, non ce l'aveva. Allora, a questa che è multijet, 120 cavalli, a questa me la mettevo in tasca, sia ripresa, sia di tutto, in velocità e cose. Allora, poi sono sceso io a Cagliari, con quella lì, in 6 persone, sono tornato a Sassari, da Muravera fino a Sassari, con 3 quintali di aranci, oltre le 3 persone, le 6 persone che c'avevo in macchina, in tutto con 30 euro di gasolio. Guarda, magari un po' in città consuma diversamente magari rispetto a una macchinetta con un motore piccolino, però se tu la tieni a velocità costante 100, 110, anche 120, ti posso dire la macchina non consuma niente, sono rimasta a bocca aperta, certo, non è possibile che abbia 4,7 litri per 100 km ha fatto, camminando più di 100 di media, è impressionante. Poi non gli puoi dire niente, come tenuta di strada è spaventosa. Io mi sono seduto su macchine di categoria di gran lunga superiore, ma la visibilità, già lo so anche, non c'è bisogno te lo dico, la visibilità, la tenuta, tutto è spettacolare quella macchina. E poi è piccola, un metro niente come te si amanda. La nuova l'ho fatta 3 cm più lunga, perché hanno messo i paluti in un diverso modo. Se no quella lì è 3,99 la cosa, la multicla vecchia. Meno di un appunto. È vero, sembra un po' grande, aspetta, forse la larghezza forse rispetto a un'altra maglia tipo un appunto, forse è più larga. Sì, no, la larghezza, vabbè, ma non è un difetto. perfetto, una larghezza, ma c'è una tenuta di strada, una sicurezza di marcia, a parte che guidi. Io quando ho capito tanto di guidare anche il BMW, Mercedes, dopo che mi sono seduto, io ho fatto perdere anche 200 km tutta una tirata, e nel tre scendi tranquillo. Io ho provato altre macchine che mi sono seduto e mi diceva ma di schiena, ho detto cazzo, le gambe non le esitamente la multipla, ti posso garantire sono stato benissimo, poi se lì guidi proprio per una meraviglia. Buonasera nuovamente a tutti. Ciao Gianluca, ciao Luca. Ciao, ciao a tutti, buonasera. Ciao Gianluca, siamo presi, aspetta un attimo, è abbasso qua. Siamo aperti con i digitali, ma non molto, nessun... perlomeno, non marino non c'è, cioè, non vedo dove è il danno. Però sono tutti, uno ha tutte le briche arrugginite, e sotto è tutto ossidato, ma non vera. Ciao Luca, non vera. In mansarda era, ma non è che ci sia questa grande umidità, capito? Un po' di ossido magari sì, ma niente di che, sembra un po', pure a me mi sono sembrati a posto, però boh, non andare. Poi non lo so, a Camarazzo ci sarà giunto, compreso, sbatto di corrente sarà stato, guarda, quando ha fatto quei temporali, tutto lì, va bene, dai. Riprendi Roberto nuovamente, buonasera di nuovo, io mi lavo un attimo le mani e riprendo subito, giusto per dire ci sono anch'io, ok? No, la musica poi me l'ha raccontata una, io non ho mai capito, la Fiat c'ha un prodotto valido che l'ha tirata via di produzione e ha tirato fuori adesso la 500L, quella lunga, bella macchina, niente da dire, però è un altro tipo di genere di macchina, e si ha venduto gli stampi a una ditta cinese, adesso la costruiscono in Cina. Ma guarda, ciao Gianluca, me l'hai fatto io. Guarda, io adesso, vabbè, non è perché ce l'abbiamo noi, però secondo me non c'è miglior monovolume della multipla, secondo me, come visibilità, come comodità, come tenuta di strada. Io non ci metto manco quella della C4 lì, quella C4 Picasso, come te la chiamo, che è grande come tipo di macchina, ecco, ma non la metto neanche a paragone. Di quelle dimensioni non c'è niente, ti puoi mettere uno di quei nuovi Fiorino che hanno fatto, quelli doblò, quelli che sono belli e caratteristici come tipo di guida, sono belle macchine, niente da dire, però di tutti i monovolume non c'è un monovolume che si avvicina a quella. Ha provato la Honda a fare con la HRV, quella a 6 posti lo stesso, ma era un'altra macchina, niente a che vedere con la multipla. Poi io tutte le persone che conosco che l'hanno avuta, guarda, io l'ho fatta comprare almeno a 5-6 persone la multipla, chi l'ha acquistata è entusiasta, detto, ti ringrazierò sempre, a parte mio cugino che lui se la vuol vendere perché fa un tipo di lavoro, ma me la sto distruggendo, lui fa il geometra, va sempre in cantieri, in cose del genere, cioè, ritorna fuori strada perché ha detto se no mi dà disintegreggio, è l'unico che un po' è rimasto così, ha detto va benissimo, però non la volevo rompere, preferisco tenere, ritornare a fuori strada, ma chi l'ha avuta è una macchina eccezionale, non li puoi dire, non li puoi negare niente, a parte poi lo spazio dentro, c'è tappazzi di sedili e ti c'è un tavolino davanti, cioè è una macchina spettacolare, niente da dire. Poi io ce l'ho avuto sia il modello nuovo sia il modello vecchio, e devo essere sincero, anteriormente mi piace il modello vecchio con i fari così in alto, come fascio di luce, i fari in vetro, cosa che gli altri adesso non è assolutamente in plastica, una cagata, come fascio di luce con la macchina è micidiale. E poi, come hai detto tu, dietro mi piace più la nuova, però poi internamente alla fine hanno abbellito qualcosina, tipo gli appoggi a testa del modello nuovo che sono più carini, il volante un pochino più carino in pelle, ma il resto è tutto preciso, Roberto. E poche fesserie a livello solo di accessori, come si chiama, di abbigliamento, di pannelleria e cose del genere, i colori, i tessuti diversi, ma siamo lì. Tra il fatto che la multipla, se tu vai in continente, tutti i taxi sono multipla, tra il fatto la mia è un ex taxi e credo anche la tua, sono i tassisti e la macchina che va per la maggiore. È la mia, ex taxi, ex, la mia era a Milano. La mia è stata presa a Roma, ma quando sono andato a prendere io ne abbiamo acceso altri due di multipla. Vanno bene. Io la mia, ti ripeto, io l'ho presa perché è stato un affare. E in più c'avevo tutta la 130.000 chilometri, non ha messo tanto, era più di 130.000 e no, aspetta, no, scusa, ne aveva 130.000 quando l'ho presa, a 190.000 chilometri gli ho rifatto la frizione, e poi gli ho fatto tutti gli ammortizzatori, perché no, me ne avevano fatti, dai, gli ammortizzatori, le biellette di davanti, e poi cosa cavolo gli ho fatto, e i dischi e pinze, e pastiglie gli ho fatto, e basta. E ti per il resto è tornata, perché mi sono reso conto questo inverno, quando ero sul continente, camminando in autostrada, quando devi tenere le medie un po' più alte, se c'è un po' di avvallamento la diventa più rigorosa, allora ho detto fermo a tutto e ho cambiato subito l'ammortizzatore ed è arrivata la macchina. Ma con 500 euro fai tutto. Ma se... ciao già, sì, è così, vabbè. Allora io quando l'ho ritirata sono andato da un tipo e gli ho detto con questa macchina a terra gli ammortizzatori e così. Biellette, tutte e quattro ammortizzatori e tutti i lavoretti che c'erano da riprendere, là. E la macchina, guarda, ce l'avevo, non c'è lì, non è nuova nuova. E anche la vista è bella. Ok, ciao già, avanti. Ciao ragazzi. Io mi stavo ascoltando, ma stavo facendo roba e mi stavo ascoltando. E ho sentito della multipla che avvantate tanto. Vabbè, voi l'avete avuta, io non so come sia come comunità, penso che ne abbia tantissima perché è grande evento. Invece l'aspetto Massimiliano mi piace più quella della nuova. La parte di davanti è più carina, più bellina come l'hanno fatta. Per fare il rotondo non mi piaceva tanto. Il modello nuovo mi piace di più come estetica e a me. Allora già, io allora, esteticamente l'hanno più rifinita bene, diciamo, perché come muso sì, è più carina, più però a me invece piace più il modello vecchio perché mi sembra più spaziale, capito? Mi piace di più. Tu pensa quando accendi i fariti, i fari all'abbaglianti, gli abbaglianti ti fanno un fascio di luce che sembra un albero di Natale, guardate, però è troppo bella anteriormente la macchina. E io la mia, dopo 6 anni e mezzo mi è partita la batteria, partita non del tutto, non del tutto. Funziona al 35% perché mi hanno fatto la diagnosi oggi e il coso, l'alternatore carica al 100%, però la batteria dà il 35%. E oggi sono andato al rifornitore, tra l'altro il rifornitore della Conad, stamattina, e mi sono verificato che non c'è accesso, sono andato a rimettere la moto e non partiva più, la batteria scarica a terra. Ma vale, c'era un ragazzo della scuola, non è che mi fa una cortesia, ti siedi in macchina, ti do una spinta per farla partire perché sennò la devo tagliare al lavoro. E non mi sembrava al massimo chiamarli lì e rifornitore della Conad. Allora, ma tu c'hai la batteria quella con manutenzione o senza? No, Massimiliano, senza manutenzione. Allora, questa qui è la seconda batteria che cambio. Praticamente, no, la prima dopo quella della fabbrica. Quella della fabbrica mi ha durato 4 anni. Questa qua mi ha fatto, no, non meno 4 anni. Questa qua mi ha fatto 6 anni e mezzo. Mi ha durato 3 anni e mezzo l'altra. 3 anni e mezzo, quella della fabbrica. Questa qua 6 anni e mezzo, la Bosch. Allora, buonasera, allora, bruciato, medicato ed eccomi qua, buonasera. Ciao, come bruciato, medicato? Non è disottisso. Non bruciato, docciato, medicato. Ah, ho capito, bruciato e medicato, mi piace compreso, ciao, mi hai sentito? Ciao Eugenio, mi hai sentito e buonasera, avanti, va bene. Ciao Roger, mi sei detto di nuovo. E c'è anche Luca in parcheggio, facciamo rientrare a Luca, avanti Luca. Comunque già le batterie, tieni presente, è una cosa fisiologica, durano di media 3 anni, ogni anno che ti fai è un anno guadagnato. Quelle della Opel in primo impianto sono batterie ermetiche e sono eccezionali, probabilmente di quelle di primo impianto sono le migliori batterie che ci sono in circolazione. Ce ne sono di meglio, però devi mettere tu quelle a coso, quelle sigillate, quelle nautiche, ma quello è un altro tipo di discorso. Però nelle batterie di macchine, di quelle ufficiali della Opel che hanno quell'occhio di controllo, quella spia che diventa verde, grigia, seconda dello, tanto misura sono le migliori batterie di primo impianto. Tu sei riuscito a fare 6 anni una batteria, aveva una candela in chiesa, perché normalmente durano sui 3 anni, 4 anni, non di più. Non so, 6 anni e mezzo, Robert. Lo sai perché te lo sto dicendo? Perché il mio retrauto, malgrado sia molto caro, sai cosa fa? Punzona l'anno di matricolazione, il giorno e il mese, con le, proprio li punzona sopra il coso, sopra il piombo che c'ha la batteria, no? Sopra i. Come si chiama? Il polo positivo e polo negativo, funziona la latta. E mi ha detto quanto ce l'hai questa batteria già? Io gli ho detto che sarà 2 anni, 2 anni e mezzo, sai, tu cerchi sempre di abbassare. Aspetta che te lo dico subito quanto ce l'hai, ha preso la spazzola d'acciaio, l'ha levigata per appena, ma se mi ha detto quanto mi leggo di questa batteria, 6 anni e mezzo. Ma metti la candela in chiesa, vai, che non dura nessuno così. Perché il piombo che costituisce la batteria, gli elementi col tempo si esauriscono, si consumano, c'è una cosa fisiologica, non ci puoi fare niente. Poi ci sono quelle batterie al gel, quelle nuove che stanno facendo tipo quelle a nickel cadmio, quelle che vendono tipo gli accumulatori, che le usano per la nautica, che le puoi rovesciare, anti-esplosione eccetera eccetera, quelle ti durano qualche anno di più, ma costano un'esagerazione, non te le puoi mettere in macchina poi. No, a me mi va bene la Bosch, guarda, la Bosch mi ha durato così. Devo dire che sinceramente non pensavo nemmeno io che fosse passato tutti questi anni da quando l'avevo piazzata. L'avevo pagata a 130 euro con la batteria, però ne valsa la pena. No, se uno può rifare, sicuramente tiene presente, sono migliori le batterie con il controllo di quelle sigillate. Le sigillate le fanno per questione di comodità e basta, per però come durata effettiva fisiologica, quelle che le devi controllare, la qualità latte e cose del genere, quelle teoricamente potrebbero durare un po' di più. Quelle che puoi mettere la qualità latte durano di più. Sì, come durata ne hanno un pochettino di più, cioè dire, confrontate due batterie uguali, quelle senza manutenzione, quelle qualcosa, un po' di più quelle con la manutenzione dovrebbero durare, però naturalmente bisogna vederle, confrontare, poi ci sono batterie di scarsa qualità, parliamo di batterie buone, no, teoricamente dovrebbero durare di più quelle con la manutenzione. Ma io ho sempre montato di batterie Fiam, vabbè, quella della Opel che ho avuto originale, poi Fiam e nella Panda avevo messo la Varta e adesso c'ho nella mia c'ho la Bosch, quella Bosch che ha durato un bel anni, ma sono sempre marche buone tutte e tre, Fiam, Varta e Bosch sono le uniche tre che vanno bene. Ma bisogna stare attenti alle batterie, molte volte vai al mercato, ci sono le Bosch per dire, o le magneti Marelli, tu le prendi, convinto che sono batterie di grande marca, sono stoccaggi di 4-5 anni e anche di lì non conviene, come le gomme che tu le vedi nuove, conservate, però le gomme col tempo si deteriorano, si induriscono, anche se sono nuove senza usare, se non le conservi a temperatura regolata eccetera eccetera, e perde l'elasticità, diventa legnoso la gomma, e così sono le batterie, col tempo piano piano gli elementi, anche se non c'è niente, se sono vuoti, molte volte sono vuote, prima in quelle ermetiche è peggio ancora, per dire, se sono conservate da tanto tempo è peggio che mai, perché di lì hanno un'autoscarica da sole, però quelle senza liquido dentro, che le dovevi aggiungere tutti i ricordi, le vecchie. Sì, sì. No, ma io a Cittamercato non mi fido a prenderle. Comunque le mie al massimo si possono mettere a 60 ampere, perché c'è l'avvolgiamento predisposto, al massimo ci sono quelle da 60 ampere. Sono mi pare da 52 mi pare l'originale, da 60 sono superiori, sono un livello superiore, si possono mettere al massimo quelle, da 100 non ci stanno, per un paio di millimetri, ma per questione di spazio. Oh, vabbè, naturalmente è inutile che se tu c'hai l'alternatore a 60 ampere, ci metti una batteria a 100 ampere non fai nulla, perché non te la carica completamente, è una cosa inutile, però esistono le batterie ad alta capacità, per dire, c'hanno 60 ampere, però c'hanno per dire 400 ampere di spunto, 500 ampere, che si usano lo stesso per i mezzi industriali e cose del genere, io per dire, nel motore marino me ne avevo messo una da 80 ampere, però c'hanno una spunto superiore a una 120 ampere, quelle che sono di ridotte dimensioni, chi conta è lo spunto, oltre che l'amperaggio di 60 ampere che mi stai dicendo tu, ci sono magari batterie da 55 ampere e poi c'hanno uno spunto superiore a quello. Però a me non mi interessa tanto lo scooter, quanto la resistenza, perché se io mi fermo con la macchina così acceso, la batteria deve durare, non è che mi posso, che può uscire come stamattina, due secondi, ho messo un 20 euro di benzina, vado a ripartire, non mi riparte la macchina perché ho lasciato le luci accese, cazzo, madonna santa, come faccio? Meno male mi ha aiutato quel ragazzo, se non sarei andato alla volante, oggi come avrei fatto? Sì, però è importante la capacità ora, ampere ora, però la capacità totale della batteria è ancora più importante, perché tu, se con la batteria eroga 60 ampere un'ora e c'ha una capacità complessiva di 400 ampere prima di arrivare alla scarica, è meglio avere una batteria che ne ha 500 ampere di scarica, per cui non devi guardare solo quello, devi vedere tutti e due i valori, il più importante è quello dell'accumulo, quanto riesce a accumulare di energia la batteria, perché sono batterie, tu le vedi da 100 ampere, poi guardi capacità del raccolto della batteria per dire ne ha meno di una da 60 ampere, quelle parliamo con le scaccine, dai. Aspetta, riprendo io, sono ragazzi, che io vado a cenare a fare il carico, dai. Sentiamo dopo, se coincide sono un po' così per questo, dai, ci sentiamo più tardi. Sì, ciao, ma ci vediamo, buona carica, ci sentiamo. Guardate se vuole entrare qualcuno. Sì, ciao Massimo, ci sentiamo, ciao ciao ciao, buona masticata. Va bene, anch'io vi lascio ragazzi, sono entrato a salutarvi, devo andare ad allenare i denti. Ciao a tutti, ciao, comunque le migliori batterie sono le nuove, quelle a GM, ciao a tutti. Ciao ciao, ci sentiamo. Ah, sei in basso di segnale, come mai? Sì, io. Via. Non lo so. Non è, riesci bene, ma il segnale ti sento di vedo basso. Tu non becco quello sì. Ma quella parola non ho ancora visto il segnale. No, non so, non ho toccato niente, guarda. I watt sono sempre quelli che uso, i normali. E c'hai i picchi molto alti di modulazione, quasi 9 qua sta arrivando. Quello del 15, il tuo segnale. Non ci sei? È il tuo segnale, 9 più 15. Non lo so già, blu. Mi arriva 209 a me, oggi mi sta arrivando più basso, vabbè, magari dipende da me, non lo so. Ho già nei controllati però gli apparati, tu le prove le devi fare sempre con lo stesso apparato, ma in uno switch è diverso dall'altro. Ma con questo qua mi arrivava 9 spaccato, adesso mi sta arrivando 5. 5? Addirittura? Guarda, non c'è tanto attenuato l'inserito, mi già. Vabbè, dai, poi lasci. Sì, esatto, controllo la volta volte anche a me mi ha fottuto, c'è l'attenuatore inserito erroneamente, lo schiacci. Sotto. Nella parte bassa di sotto controlla il quarto tasto. Mi ha fatto vedere Roger? Dimmi. Oggi un amico mio si è comprato un camper usato, un Leica. Esteticamente non mi piace da fuori perché è un marrasone, 7 posti, ma dentro cacchio è spettacolare. Ha pagato un po' me perché dal 96 ha pagato 12.000 euro. Diciamo il prezzo suo di mercato, anche io con quei soldi ne avrei trovato di meglio, però ecco, c'è un allestimento interno spettacolare. No, marcato in Tirrenia per caso? No, era qua a fianco dove lavoro io, su zona dei carbonati, da. E, come si chiama? È un camper del 96, però dentro è fiammante, bellissimo, anche fuori, però è troppo enorme, cioè esteticamente non rende, però dentro c'è un'abitabilità spettacolare. Il tuo quanti posti è, Eugenio? Il mio è 4 posti, ha un'abitabilità allucinante. No, io il mio è 6 posti, ma se mi dici te ne ho un altro a 4 posti, io gli dico, te figlia di lui, uguale al mio, parliamo, un po' più piccolo, perché non te ne vai nulla di camper troppo grande. Quanto è lungo il tuo camper? Poco meno di 6 metri. Vedi, il mio va già sui 7,50, capito? 7,50? Allora? Chicca che 7,50, allora sei un motoroma. Sì, la grandezza è motoroma praticamente. Ci metto che qua, ma quattro posti fissi o da allestire? Allora, due fissi e due da allestire. Nella massa, ma tu c'hai la massa alta? No, negativo, è semi-integrale. Ah, era per quello. No, con la massa alta l'ho avuto e non mi piazzia. Mi piacciono quelli semi-integrali a me. Hai ragione. anche da parte mia. Ne ho visto uno l'altro giorno su uno scudo, mi ha fatto troppo ridere, cacchio. Da dietro si entrava, gli altri erano a 2-3.5, perché ti dovevi inchinare per entrare, cacchio. Non so se ce l'abbia fatto lui o cosa, ma mi ha fatto ridere tutto un anetto, perché ha detto, ma che tutti i nani, insomma, entra, e non chiedere. Non ci ho capito. Ci ho capito, cioè, cosa ha fatto? Questo Fiat scudo allestito a camper, a caravan, autocaravan, camper per un'altra cosa, e si entra da dietro, vai, anziché avere gli sportelloni come tutti ce li hanno, la porta d'ingresso laterale, questo entri da dentro, ma in altezza è basso basso, sarà 1,5 metri di altezza, proprio l'altezza del coso, per entrare ti avvicina, e io non so come facciano a vivere dentro. Sì, ma qui sono cose così. Io faccio ieri con mia moglie, no, ieri è Marco, abbiamo visto quello grande. Ieri è Marco, no, fatti ieri. Ieri a mattina abbiamo visto uno a lungomare, targato svizzero, massardato, grande come il mio, ma era alto. Alto, alto, alto, allucinante. Un camper troppo strano. Guarda, questo che ho visto oggi è, come si chiama, il pavimento, la terra sarà 1 metro di altezza. C'era cioè, un metro, diciamo, 80 centimetri, c'era una scala a 3 gradini, non l'avevo mai vista, infatti ho detto, ma lo sapete invadere un camper così alto per alzare con la scala elettrica a 3 gradini, non l'avevo mai vista, infatti ho detto, ogni spazio sprecato. Infatti, il mio è alto, ma attenzione, il mio è alto, io ho le sospensioni, come si chiamano, le sospensioni ad aria, lo posso abbassare e sollevare. Pneumatiche, sì. Sono gli ultimi, detto, vabbè, l'ho visto secondo figura nel tuo sito, e di nuova generazione, è una cosa spettacolare, bellissimo, niente da dire. No, il mio roba vicina, nemmeno vicino con quello lì, non puoi confrontare, ma mi ha fatto qualche soddisfazione, già me la sono tolta anche con quella. Io ho iniziato per dirti, quando eravamo fidanzati con mia moglie, andavamo con un fiorino, cioè avevo un allestimento con il fiorino dietro, tutto canto smontabile, verde in bocca di roba. Però mi sono divertito, avrei desiderato il camper, però anche con un buco mi sono arrangiato, poi con la tenda e poi è uscito il camper. Sì, ma poi ti arrangi, no? Tutto sta lì, all'esigenza, poi ti arrangi. Ma sì, ma anch'io ho iniziato con un camper vecchio, con un Rim, no, non il Rim, quello era il secondo, con un Elnang, però quello era grande, grandissimo, l'Elnang era proprio grande. Aveva due posti, aveva due letti a castello dietro, il bagno a fianco, con doccia. E poi aveva la mansarda grande e vabbè con mia moglie dormivamo in... Io non è lag, no, come si chiama? La mansarda io non ci riesco a dormire, ho provato una volta, nuda, no, io me ne vado dietro, non in coda a dormire, neanche al centro, come entri ci sono i due letti, la piazza in mezzo, no, non mi piace, ma ne vado dietro, non è letto singolo, so che troppo vero. Vai già, e tu capo non dormire già. No, non è cattivo. Cioè, c'è pochi spazi per sostare, bisogna pagare tutte le case. Prima era bello quando c'era il camper che potevi essere libero di andare dove volevi, fermarti, eccetera, adesso non è più così. Ce l'aveva un amico, ce l'ha venduto quando ci ha comprato la casa, infatti lo rimpiange sempre, dice sempre che gli manca, e dice non è la stessa cosa, svegliarti e vederti il mare il primo mattino, fare quello che vuoi, vuole pescare da pescare, vuole farti il bagno presto, te lo fai presto, le amicizie che fai, tutte queste cose, dice che sono impagabili. Tintino che Tintino, prima di arrivare alla Perosa, ci sono due tagli per il campo, io entro di lì dentro, mi bombo di mi piace, nessuno mi ha mai detto niente. Poi non parliamo se vai alle saline, sono del genere, tutto un campo. Ciao anche Antonio Brodi, avanti. Santiago 9 qua, la radio è un po' fibra, ma Santiago 9. Buona cacca, buon tutto. Ma come la stai facendo con i walkie-talkie dei bambini? Antucca. Il segnale sarà 9:10, ma non è il tuo, tu sei oltre 9:40 quando attacchi. Come mai io non lo sento? 9:22, 9:09, io non mi segnale. Twitter mi fa muovere. Non dici, oltre 9 adesso. Capito, se sono sempre uguali comunque. A me non mi segna, non mi muove nemmeno lo smitter. Si sta trasferendo l'antenna interna, capito? Sto facendo con l'antenna interna. Capito, va bene, ciao, ci sta, dici, ciao. Sto facendo con l'antenna interna, ma il portatile c'è o che cosa? Ho capito, baracchino con l'antenna interna. che quello ha inventato con le sue batterie, con l'antenina in gomma mi ascoltava Luca, Santiago 3, 4, arrivavo, ma mi ascoltava. Sanno che non stai arrivando così forte per essere. Ma cos'è, l'antenina non è accordata allora? Come? Ma vabbè, probabilmente è per quello. Ok, vabbè, come me sei in condizioni precarie? Dove vuoi abitare? No, capito, dove c'è Atena? E a che piano avete l'antenna? Patrico. Quindi lì sparica una bomba, li ammazzi tutti adesso. Ti dico, ti metti una direttiva a 20 elementi o una mantova affiancata a un coso? Allora che cosa tagliare il treno? Beh, terrazza o tetto a tegole? Vabbè, quando la piazza, tanto se hai bisogno di una mano non c'è problema. Non c'è problema. Basta che la bottiglia di birra per il caldo, boh. Io quando abbiamo pesato la mia ho portato un po' di birra su fresca, bella fresca. Sono le due pizzate al taglio e mangi il chierigano. Certo, sei andato a mangiare quel ristorante che ti ho detto? Tu ci sei andato a mangiare in quel ristorante nuovo che hanno aperto, vabbè, quello di Pesanito. Me l'hanno aperto un ristorante nuovo. Dove c'era... dove ci sono i cinesi anche. Come cazzo si chiama? Ma aiutami. Si chiama? Rotten. Sì. Una volta sono andata a mettere le rotte e sono uscito questa grassone pornografica tutte nude. Ho sbagliato, invece che rotte non mi sono rotte, prova a farlo. Ne abbiamo fatto quello scherzo, mi ha fatto Franco Delta 1, ha detto mi entra in questo sito, non so che aveva fatto, che fa un bel ridere, che ha ciappato da fare cose pornografiche. Ma ho capito quello dove è questo ristorante, ditemi. Allora la centrale del latte, vabbè. Praticamente, come si chiama quel negozio di che c'era prima? Non mi viene il nome. Ma c'è, scusa, ho capito. Ah, ho capito. Ma quello non è il parte cinese. Che nemmeno così mi imbaghi, vado in chiudere. Allora racconto una storia, cosa mi hanno raccontato oggi di un ristorante cinese. Raccontami, dici di che dico. Guarda che lì c'è asti, ci sono sgombri, ci sono pesce fresco, e te lo mettono sul piatto e te lo cucinano davanti. È fresco, lo dici tu. Oh, esteticamente è bello quel posto, però basta lì, preferisco andare in posti sicuri. Ma sai cosa è capitato a un amico di un amico mio, me l'hanno raccontato oggi, parlando dei ristoranti cinesi. Dice, era Magnani, non so cos'era Magnani, è arrivato a un certo punto, stava affogando, cacca. Non riusciva a capire cosa c'era, e gli ha tolto la bocca, lo sai cosa va via dentro la loro? Un microchip di un cane. Aio, va finito. Finita, se capita tipo con una persona, cacchio. C'è davanti alle cucine del lugare, stanno andando fettine di non so che cosa, e c'era dentro la volante, non si è trovato il microchip del cane. Del cane o del gatto, non so cosa sia. Che è successo questo? Qua a Sassari, adesso non mi ricordo dove mi ha detto, mi ha detto anche il nome del ristorante. È successo qua a Sassari. Perché loro mangiano i cani, ma io ho mangiato roba normale. Allora, il sushi è l'unica cosa che ho mangiato che non era di qua. Poi ho mangiato una bistecca, di quelle belle grosse, delle pulci crude e te le arrossiscono davanti agli occhi. E poi te le danno. O c'è che te le servono a tavola loro, come vuoi tu. Puoi aspettare oppure te le servono loro. Poi ho preso un pesce, un salmone e l'ho fatto arrostire e l'ho fatto al bambino. Poi ho preso delle salate con peperoni, c'è un'altra roba piccante, ma di sera io per peperoni non li digerisco, quindi l'ho lasciata da parte, però molto prima perché l'ho gustata e l'ho lasciata pulitissima. E poi delle coscette piccole, tipo galletto valespuga, roba del genere, che erano impanate e fatte fritte, erano ben buone. Poi se vuoi alla fine ti puoi mettere il gelato quanto ne vuoi, prendi le scodelle, ti metti il gelato che vuoi, c'è proprio come al bar il coso dei gelati, tu lo apri e te lo servi tu. E l'hai pagato? Abbiamo pagato 18 euro a testa, ma ce l'era da mangiare, c'è praticamente il service, tu la buffet, capito, tu vai e prendi quello che ti pare, ci puoi trovare 4, 5 volte, 6 volte, quanto vuoi. Guarda, abbiamo visto una coppia, stavamo contando le volte che era aperto, con la modalità sono andato una volta e poi ho preso il gelato ed ero già pieno, non ce la facevo più. Però mi sono mangiato molti calamari, dico la verità, mi sono attaccato agli anelli di calamaro, che erano un bel buono, erano proprio morbidi, croccanti e dentro morbidi, proprio veramente buoni. Ma questi sono gestiti da cinesi? Sì, è gestito dai cinesi, ne ha tre ristoranti questo cinese, perché ha fatto amicizia con un mio amico che fa marketing, addirittura doveva appena l'ha riconosciuto cosa di gioco, l'ha chiamato, si è messo a parlare di cose di locali, perché questa ricorda c'è anche un locale, una pizzeria, quindi hanno parlato di locali, di cose, e poi si devono vedere, non so perché vogliono fare qualcosa insieme, non so, mi ha chiesto di vedersi. Non lo so, io da fuori l'ho visto, sembrava carino, poi ho intravisto il suo bacino e ho detto, lascia Bisbì, lo sai dov'è che vorrei andare già? Che non, però non conosco nessuno che sia andato a Badimannitta, al coso, dove c'è il parco, che dice c'è solo la cozzeria, fanno solo cozze di tutti i generi, di tutti i modi. Vicino a casa? Sì. L'ho sentito anche io, però non sono mai andato. Però le cozze le prediligo solo in un modo. Fate con l'aglio, prezzemolo e peperoncino, sono la morte sua, gratinate e non mi biasi. Altri tipi, la verità, non penso, l'ho mangiata a zuppetta, sono buona anche a zuppetta, però le preferisco sempre aglio, prezzemolo e peperoncino, per me la morfologa è quella. Ma io tutti e tre i modi li mangio. Quando questa mangia cosa mi devo spaventare, cioè mi devo calmare, perché sennò c'è il rischio che mi facciano male, perché mi mangio un chilo d'azzurra, se mi metto a mangiare guarda. Tu, a casa ne compriamo 4 kg quando le prende mia moglie. Cioè, io mi mangiavo con la buccia, per quello che a casa mi hanno fatto male. Dure, cacchio, ma non c'è tanto sotto se la mangia mai fregata. Eppure, se non si è finito questa meccanica a mangiare lo baccone, se ne mangia anche 50. Io lo conosco, il vice campione di mangiare la ciunghita, che era per 3 anni consecutive campione della gara della ciunghita. Ne ha mangiato, non so se era in 3 minuti o non so, cucando 120. Figurati. No, ma lo tiro che stavo qui, dice, ma non mangio altro, mangio solo in carta, e dunque che non mangi altro. Dico che i piedi sono pesanti, i troni. Ma guarda, manconi non li ho mai mangiati, non mi hanno mai attirato, non mi piacciono. Lumache grandi sì, le monzette, lumacchine, ma lumaconi, mamma mia. No, non mi ispirano, anche se la gente vede sassarisi col pane grattugiato, il pomodoro e la mortadella, dico. Sì, anch'io sono così, hanno quel sapore particolare che a me non mi piace, forse di selvatico, di cose, boh. A me piacciono solo le lumache grosse con sughetto piccante, poi le lumachine le mangio sì, ma non è che piacciono più di tanto, le monzette non li posso vedere, perché sono andato una volta al ristorante Castello quando era ancora aperto, e ho preso monzette e mio cognato aveva preso calamari arrosto. E fatto sta che ho mangiato la monzetta e ho trovato il mucco dentro, era di quello sigillato, c'era il muccio dentro, e non le ho più toccate. Mio cognato mi ha detto, esco a fare una cosa, dammi le monzette e metti del calamare, non mi pare un domino. Ma le monzette mi la so per fare già, se le fai arrosto e fatte bene, le so buone. Ma allora non erano fatte bene, quello col mucco non erano fatte bene, secondo me, lui dice che rimane perché c'è sigillo, per quello rimane un po' muccoso. Io di mucco sinceramente non ne ho mai sentito, vabbè che quando sono fredde, ma se sono cotte bene non ne ho mai sentito. Tu guarda l'attenuatore, come hai ragione tu. L'attenuatore. L'attenuatore, te l'ho detto, stai attento, molte volte anche a me mi ha fuggito. Poi quando ti togli tu le 20 dB l'attenuatore, non so poche. Sì, è vero. Antonio Grode, quando è che ci trasferiamo? Cosa c'è? Domani? No, dico per fare, domani cos'è? Venerdì? Allora ci salgo. Sempre 10 euro si paga. Ma io faccio come l'anno scorso che non mi ha fottito l'anno passato. L'anno scorso gli altri ricordi che c'erano i costi di blocco alla fine, no? Io ho bevuto due bicchieri di vino, poi ho cominciato, no, prima mi sono fatto il fondo con l'uovo da sole, mi sono bevuto due bicchieri di vino, boh, basta, non ho bevuto altro, poi ho cominciato a mangiare. Poi c'era quella macchina dei carabinieri, no, che faceva, se vuole zitto, faceva la provettica per l'alcol test. E io praticamente risultavo tranquillo. E mi ha detto il carabiniere, lei ha bevuto? Gli ho detto sì, dico la verità sì. E quando ne ha bevuto di bicchieri, gli ho detto bevuto di bicchieri di vino, ho visto che non è come dicono, che quando beve di bicchieri di vino non segna nulla. È brutto quando ne beve tanti. E poi sono arrivate queste ragazzine cotte che pippa, hanno cominciato a insultare i carabinieri. Vai, servi dello Stato, erano cotte, capito? Quella fiammella te la devono accendere da un trattato, questo carabinieri sta per partire, l'ha fermato il collega, guarda che sono minorenne, sono anche cotte, cosa li fai? Ma ragazzi, sui 16 anni, quanto ci ha sembrato? No, a me è rilanciato già. Sì, ho detto, ragazzi, sui 16 anni, insultando i carabinieri, dicendo i servi dello Stato, che si facevano pilotare, che questo, quell'altro, no, ecco, poco, erano tutti insultati, questo carabiniere stava per partire, per prenderla, il collega la lascia, la stare, dice che è minorenne, ma vedo non deve andare manco in bicicletta, e dico, perché dopo la trovo guai. Questa roba qua penso. ho finito il nero, ho complicato il focale e poi l'avevo venduto, non ce l'ho più. No, il duplicatore non ce l'ho più tanto. Mi sa che più quello che c'è stato non ce l'ho più, perché l'ho migliorato. C'è un filtro in neutro e basta. Filtro in neutro e forse qualche cross screw. O Fabrizio Corona. Che gran numero un tambro. Attacco... Mi sa che è a maionetta. Sì, a maionetta. Dovrebbe essere, sì, mi sa di sì, perché cosa stai usando, una macchina vecchiaia? Ah, capito. No, vabbè, si può sempre vedere, dai, 1000 euro ti dà tutto, già ci sai. E poi se proprio ce lo ferma, vabbè, ti dico la verità, mi ricordo il cuore a vederla così. Trago una passione per la fotografia che tu non immagini nemmeno, vedevo qualsiasi cosa, un insetto piccolo, un fiorellino piccolo, gli facevo un ingrandimento, tutto, fotografavo tutto, avevo sempre la macchina fotografica in macchina, a volte vedevo un falchetto, mi fermavo, tracco, facevo una fotografia. Io lo stesso c'ho un amico, lo stesso grande appassionato di fotografia, tutte le cose minion, le cose dai fiori agli insetti, c'ha una raccolta di fotografie spettacolare, delle rocce, di pietre, di tutto fa, ma migliaia di fotografie, facendo già 1000 euro va bene tutto. Ah, anche molto meno. Ma ti stavo dicendo, a Franco California gli ho fatto una fotografia con la moto, gli ho fatto l'ingrandimento e gliel'ho regalato, mi è piaciuto un casino quella fotografia, gli ho fatto l'ingrandimento e gli ho regalato l'ingrandimento. Tanto non lo so, vedi tu, dove ci posso salvare? Vediamo, ci te lo faccio vedere e poi ti faccio vedere tutta la prestazione, ma così almeno te ne innamori. Che lavoro, Max. Non è che non ne ho voglia, già possiamo uscire, il problema non c'è, tanto sono in piscina tutta qua. Sono in piscina col bambino, mi sono fatto una sauna che non viene bene a dirlo oggi. Troppo, troppo caldo, cioè non si può stare. Che comodità! Vabbè dai, fate sentire il radio che già si prepara, adesso vengo. Ci sentiamo dopo. Via. Roba. Niente, sono andato, stavo aspettando delle basse, un amico che stava parcheggiando, gli hanno fermato il parcheggio e poi l'ha trovato più avanti, eravamo insieme, io con mia figlia dovevamo salire su in federazione, che doveva sistemare delle cose, e, diciamo di sì, sistemate relativamente, dai, c'è da proseguire tu. Capito? No, ma non c'entrava niente, mia figlia gioca sì a calcio con la Torres, però non c'entrava niente, è venuta a farmi compagnia e basta. Chiesto, non mi sto neanche interessando più di tanto, sto leggendomi dopo pranzo, mi faccio una cinquantina di domande così, dico le già risposta, domanda e risposta, ma non lo sto facendo con passione, per cui non lo so se ci vado a maggio se la fanno, dipende dalla gara, cioè non ho lo stimolo che avevo all'inizio, che proprio assiduamente mi sono messo un mese e ne sapevo, adesso sto ripassando, rileggendo così come potrei leggere un libro di qualunque altra cosa, però non ho la voglia, la passione diciamo, dai, speriamo che mi rivenga nel frattempo. E c'è il rischio che lo fa, è venuto l'altro giorno un radioamatore in officina, un fattore che abita tra l'altro vicino a me, molto conosciuto, mi ha detto che lui ci è andato 16 volte. Non ho capito, scusa. E non lo so, se è un CV di vecchia data, lui c'era diversi anni fa, una decina di anni fa c'era. Forse anche, no, fai 15 anni fa almeno, c'era. E tu ce l'hai presente la zona dove sei adesso tu, come si chiama? La zona parliamo, il quartiere, lui c'aveva con l'Illuminati TV, capito? Gianni Doppio Rum già l'ha conosciuto, dai. Ci sta ancora mangiando il tonno, no? Già entrato un attimino. Una moto nuova, vai a prendere della Claudio, ci sta ascoltando comunque, dai. È diventato un gatto sequestrabile. Che avanti. E avanti. Ha dato un colpo di portantina a 9.40, chissà che adesso. E tu la sei combinando, Anto? Ma dove è inaugurata? Dove? Dove stai abitando adesso o dove andare a abitare? Dove abitano i tuoi genitori? Ma tu di lì, è vicino a Daniele... Vabbè, questo è il nome di cosa, di nominativo, non lo so. Vicino a Daniele tu salvi. E l'antenna c'è ancora di lì, dove c'erano i tuoi genitori. Ma è sempre discorso o non la smonti con l'antenna? Quindi la tieni di lì per qualunque necessità. Guarda, io adesso la prossima acquisto che faccio è un'antenna per le V, voglio mettere, anche se ce n'è una piccolina, me ne hanno regalato una Grand Plane piccolina, una mini Grand Plane, che le usavano per le V, però voglio mettere qualcosa di più performante. Bella? Non lo so, questa aveva 50 anni, 40 anni, è un'antenna che c'aveva mio zio quando era in servizio, lui la usava marina per qualche femarino, dalla moglie quando usciva in barca si attaccava a quella, l'aveva tenuta come stazione fissa. VHF ho detto io. E c'è la dialini resi, no? I piccolini, il piantone in questa fusione di alluminio. Sono in resina, 100%. E perché? C'hanno all'interno, c'hanno un filettino dentro, e perché l'altra Grand Plane che ho io, la mini Grand Plane, la prima antenna che ho avuto io, è esterna, c'è la dialini in resina con il cavettino in filo da 0,5, 0,3, non lo so. La mini Lamb, mini Grand Plane della Lamb, hai detto bene. Però mi hanno indicato un'altra, Claudio mi ha detto prendi questa qui che c'ha un'ottima resa per le V. Non so, mi ha detto no, ma guarda se mi puoi aiutare a dire come si chiama. Mi pare che si chiama così. Spara bene quella. Perché questa che c'ho, la multibanda, funziona bene su tante bande, però sulle V perde moltissimo il segnale. Addirittura, guarda, sulla banda 88-108, con il CR7000, con il ricevitore, funziona meglio della manta, ma anche se la manta, vabbè, è accordata su una frequenza 27 MHz. Però considerando le dimensioni dell'antenna, ho detto, sicuramente la manta va meglio per stazioni lontane, invece niente, non riesco a agganciarle. Con quella piccola multibanda, siccome va, mi pare, da 40 MHz fino a 1300, e anche la trasmissione la puoi usare sulle V, però non rende in ricezione. Militare che ti ho fatto vedere, che mi interessa per fare delle prove di ricezione, solo che nel frattempo si è inciudato il coso, il motore, il rotore, nel tocco quella della 27 me la oriento verso la Spagna, la lascio fissa e non in verticale verso la Spagna, anche se magari col palo di coso non è che possa rendere più di tanto, ci vorrebbe un palo in resina, perché sennò va in coso, in disturbo con i radiali. E poi mi metto quell'antenna lì che ti ho fatto vedere e poi ne voglio mettere un'altra per la cosa, per le V. Addirittura c'è una cubica pure per la 27, mi hanno dato quella, però non ho tempo di piazzarla. Questa non l'ho già fatta la cubica. Sono grandi, per i 6 metri sono enormi. sto dicendo fesseria, ho detto fesseria, quindi 6 metri, meno se la fai a mezzo, più o meno un metro e mezzo. No, no, 40 metri che manda. Le antenne dice che si vedono là fuori, non ho avuto modo di passarci, però mi hanno detto tutti che sono enormi. Se vuoi vedere le antenne basta salire su da Marco e ti spaventi, oppure vai da Walter e lì le vedi di tutti i colori. Quali di Walter? Perché ce ne sono tanti. Che avanti? Sì, ho detto, quali antenne di Walter? Ce ne sono tanti punti. E lui c'ha tre postazioni. Non ho più sentito a volte da parecchio, mi ha mandato gli auguri a Natale, però non ho più sentito. Allora, quest'anno a me mi sa di no. Ah, però io me l'ha mandato anche quest'anno, hai ragione. Sì, me l'ha mandato anche a me. Però li ho mandati prima io. Anche io li mando per primo sempre, normalmente. Però comunque confermo. Però io te li manderei lo stesso, ricordi? Anche io, così Giulio me le ha mandate anche a me, cioè prima, sempre il primo che li ricevo è Giulio, è un'altra persona, me le mandano sempre per primo. Sì, sì, sì, è vero. Ma Grode, che fine ha fatto? Mi stava chiamando Grode. Sì, sto a casa tu. Sto uscendo adesso dal cancellino e mi sto per rimettere via Sulci. Rimango anche io qualche minuto più chiuso là. Ciao, no, mi sentite? Vabbè, sì. Già. Mi senti bene? Sì, diciamo, buono il segnale, la voce mi sembra un po' troppo nasina, prova a parlare. Guarda, 1, 2, 3. No, va bene, stavo dicendo così. Ma tutti mi dicono che è molto chiaro, la modulazione è proprio, boh, è strano. Forse perché non stavo avvicinando così, guarda, 1, 2, 3, prova. No, così non mi piace, no, quando te lo metti troppo vicino sembra che stai parlando col microfono attaccato alla bocca. Infatti è così, era proprio attaccato. Cappa cappa, questi sono i cani che stanno mangiando la mondezza sopra la rotatoria che c'è via Sulcis. Via Sulcis? Non stai andando forte allora. E via Succi ci sono, dove c'è la rotatoria? Sto facendo il ponte nuovo. Ma tu mai ci più forte di casa tua? Esagerato. Eri più di 9,20, 9,25 eri. Ma con l'antenino piccolo, aspetta l'estate con la piazza la grande. Comunque, Antonio, dopo che facciamo le tue di antenne, dobbiamo dare un colpo alla mia anche. Se ne abbassarla e metterli col radiale. Ci vuole un trapano senza fisica, perché devo fare il buco nel radiale. Tanto li rimetto lo stesso perché è un pezzettino piccolo piccolo che si è rotto. Li rimetto lo stesso. Beh, Antonio. Dove stai scendendo giù, o? Allora. Ma tu, te la mandata di Antonio? Stava alla casa sua a prenderlo sotto, andiamo a berci una cosa, poi vediamo se interessa la cosa, se no me la riporta a casa. Yeah. Ma io anche un grotte, sì. Grodino. Stiamo leggendo due scosse di terremoto, è avvenuta stamane a magnitudine 4,2, all'angolo della Sardegna, nel Mar Tirreno. Terremoto o maremoto? Vabbè, terremoto, le onde di terremoto poi creano il maremoto, però sarà in linea d'aria, quanti chilometri saranno? A una cinquantina di chilometri dalla Sardegna verso la Civitavecchia. Adesso terremoti, siamo a luce di lontano, si scende una catastrofe, la terra si sta ribellando. Hai compreso, io sono preoccupato con queste esplosioni nucleari sottomarine, non sottomarine, sotterranee, chissà cosa stanno smuovendo, perché la terra è vuota adesso, all'interno, magari quando scarichi tutte queste cose. La Nord Corea non ha fatto un esperimento nucleare che erano solo da tanti anni che non se ne facevano più, sotterraneo. Chissà poi cosa fanno gli americani o i russi o i cinesi, peggio ancora. Scusa, sono per Antonio. Certo. Sto scendendo giù e sto andando con Gianni, ci sentiamo dalla radio, dalla macchina. Ma lui cammina piano piano, un po' calmo, non so se lo conosci. È molto tranquillo, posato. E cosa ha fatto il papà alla Guardia Svizzera? Dice, stando la mattina si è alzato, è passato davanti alla guardia svizzera, è quello che ha fatto il saluto. E beh, dice, com'è andata? Bene, bene. Dice, ma tu hai fatto la notte? E quello che ha detto, sì, sì. Aspetta un attimo, è salito su, le ha portato una merendina e un bicchiere d'acqua, e una bottiglietta d'acqua. Ha detto, se ti serve qualcosa, vieni quando vuoi a cercarmi. È un passato particolare questo qua, veramente. Allora, è un po' povero, riesce a capire chi ha bisogno, è molto sensibile, a me mi ha preso, mi ha commosso, la prima volta che l'ho visto, come è uscito fuori, per la prima volta mi ha subito commosso, mi ha preso a pezzo. Sì, sì, no, sono contento, era ora, perché da quando è andato via Wojtyła non abbiamo avuto, anche questo non lo possiamo conoscere, non possiamo dire niente, però non dava un'immagine di coso, era troppo chiuso in se stesso, di quelli superiori, questo invece è il papà della gente, almeno da quell'impressione qua. Speriamo che riesca a rivalutare la Chiesa, speriamo, perché ne hanno passato un po' di tutti i colori. Sembra una brava persona comunque. Antonio, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Allora, sta arrivando. Aspetta che te lo faccio. Ma tu un po' sono trovi. Aspetta che te lo faccio. È il grotto, ci si e batti un colpo. Tutto. Beh, fate la bravi, mi raccomando, mi bevete la forchetta. Beh, non parli con il lieto. Che coniglietto? No, le conigliette che ti servono. Ah, ho capito, il bar di coniglietto. Visto che non ha preso la presa sotto il coniglietto, vedi già. E anche quello di più in bocca, vedi. Stai attento, i tempi che corrono. Uia. Vai, che sto scherzando, che non è vero. Da voi non viene nemmeno a fare così a sassi. Ma vuoi fare tu la coniglietta? Che aspetta perché, ma una volta c'erano in piazza, un bel tempo fa, me lo ricordo, c'era un bar che ce li aveva. Io sono convinto, se è una cosa fatta carina, ordinata, senza essere volgare, è una cosa bellina. In Olbia c'erano comunque queste cose, in un locale di Olbia. Chi va, chi frequenta come le sale cose? Allora ti dico, io non dirò, sono andato a Bologna, mi hanno portato una volta, eravamo tutti in compagnia, carrozzieri, ha detto che siamo i comuni, andiamo qua, abbiamo chiesto di lì e ci hanno portato in questa, mamma mia, già ti racconterò già. No, io non sono mai andato in questo locale, dico la verità. No, ma io non c'ero mai, mica sono frequentato di queste cose, no, gamma biliare, no, ma è capitato che eravamo tutti in compagnia, no? Siamo stati 7-8 persone, carrozzieri tra l'altro, porcaccioni che non ne possono più, e ci hanno detto andiamo da questo posto, hanno chiesto a questo di Bologna, perché ci siamo stati un paio di giorni, 3 giorni, stiamo facendo un corso, dopo che si può andare, mi andate di lì, e siamo andati a vedere di lì dentro, ma nemmeno ti immagini già cosa sono quei puzzi. Io già me le immagino, me ne hanno raccontato tante, gli amici che sono andati, Antonio c'è stato, vedi, tanti amici che ci sono stati mi hanno raccontato di tutto di più, poi quello che mi hanno detto se è vero, non lo so, ma già me ne hanno raccontato di cosette. Sì, lasciamo perdere, no? non tocchiamo gli altarini. C'è bollettina con Mattarello? Non ho capito, no. La bollettina con Mattarello? No, tanto già lo so anche lì, dopo un po' di anni già riuscito a saperlo anche lì. Quindi, vabbè, poi ci siamo fermati, dai 5 minuti. Chiudiamo, vabbè, dai, ci sentiamo che siamo qua, stiamo andando a bruciare una cosa, dai, ci sentiamo. E anche io ti do adesso, dai, ciao ciao, buon proseguo, dai, ci sentiamo magari domani, se ci sente sarò quando sarà. Ciao ciao, buon divertimento. Ciao ciao.